dorme, non sarebbe attrice se non dormisse quando il mondo è desto, ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla, ad aspettar felice. Andar piccina, questa è la medicina. Che mai spiega il corso? Quasera la mia rivincita. Quale temerità? Non mi visti forse di cuore la fremente, mordersi a sangue, pensare, tremare, intimidire. Quando gridai, la fronte che va. miracoloso. Che ci v'altro? Bambina, non ti crucciare, non piangere. Soffri sola, piango d'amore anch'io. Ma neppur ti sembra insanità che puoi cupido e cielo conoscere. Saresti mai tradito? No, dimesso il porto. E ne soffrito assai? Sì, ma non son morto. Yeah. Thank you.

treni trascolori e la gioia no quei fiori quali non mai va a vederli erano là poi nel fuoco oh crudelità li gettai nei dolci fior mi pareva morto il tuo amore ma cosa Thank you. Adriana, Adriana, morta!